acquisire un tuo pre-spazio sociale 100 celle aperte via delle 6:05. Cena a sostegno di Radio Onda Rossa. Dalle 20 buffet vegan su prospezione. A seguire, la radio si racconta, un segnale lungo 40 anni. Una radio senza padrone e senza pubblicità, anche senza una lira. Muore, riempi la pancia, sostieni la radio. Mercoledì 26 ottobre, spazio sociale 100 celle aperte via delle 6:05. Per info, 100 celle aperte.org, www.ondarossa.info.